Runtime Radio presenta Ich bin ein Berliner. Houston, we've had a problem. Delenda Cartago. Le forze armate tedesche si sono arrese agli anglo-americani. La guerra è finita. Un programma di storia e cultura a cura di Roberto Tomaiuolo. Io sono sempre stato al corrente della natura non regolare dei finanziamenti ai partiti e al mio partito. L'ho cominciato a capire quando portavo i pantaloni alla Zuava. Tornando a casa troverete i bambini. Date una carezza ai vostri bambini e dite: questa è la carezza del Papa. Prodotto da Simone Pizzi. New Hampshire, delegates from 44 allied and associate countries arrived for the opening of the United Nations Monetary and Financial Conference. Invited by President Roosevelt to the first major world financial meeting since the London Conference of 1933, they will work in the seclusion of this White Mountains resort. Zhang Shikong, one of China's representatives, with Secretary and Mrs. Henry Morgenthau. United States Treasury Secretary Morgenthau heads the American delegation. On the opening day, in his role of acting conference president, he addresses the meeting. To be discussed are plans for the stabilization of world currencies. All agreements must be ratified by the governing bodies of the nations involved before becoming effective. Delegates to this monetary and financial conference pose on the hotel lawn. These meetings are designed to promote trade in the post-war world and to create a foundation for lasting peace. Oggi parleremo della celeberrima conferenza di Bretton Woods, che si tenne lungo la strada presso l'hotel Mount Washington nel luglio 1944 ed ebbe più di 700 delegati da 44 nazioni. In questa conferenza furono discussi e negoziati una serie di accordi economici ed internazionali, in particolare circa l'ordine monetario fra i paesi, che ebbero grande importanza per il sistema economico e monetario del dopoguerra. Essa, in ultima analisi, si ridusse ad uno scontro fra Stati Uniti e Gran Bretagna ed avrebbe ufficialmente sancito un cambiamento dal predominio dell'impero britannico all'ascesa della superpotenza americana. Non passa giorno in cui non si senta invocare, quasi sempre a sproposito, la necessità di una nuova Bretton Woods. Ovviamente questo è un refrain niente affatto nuovo e comunque, soprattutto in tempi di gravi difficoltà economiche e di debiti pubblici elevati, come quelli che stiamo vivendo. Vale allora forse la pena, prima di imbarcarsi davvero in una nuova Bretton Woods, di scoprire cosa realmente accadde nella prima versione, quella originale, che di spunti, personaggi interessantissimi e colpi di scena ne ha avuto davvero tanti. Ci soffermeremo soprattutto sulla parte storica degli eventi e sui protagonisti, più che sulla parte economica, che pure meriterebbe un approfondimento a sé, che magari faremo più avanti. Comincerò con il fare delle affermazioni, alcune delle quali, mi rendo conto, non sono udite spesso nel nostro paese. La prima è ovvia. Bretton Woods è stato probabilmente il momento in cui l'America ha posto le basi per la propria preminenza economica. La seconda, pure ovvia, è spesso assai meno sottolineata. La conferenza ha decretato il destino infausto dell'impero britannico. Corollario di queste prime due, si è svolto uno scontro assai violento Stati Uniti-Gran Bretagna, con la vittoria della prima e la capitolazione della seconda. L'ultima affermazione è che, probabilmente, John Maynard Keynes non si dimostrò la scelta migliore che gli inglesi avrebbero potuto fare in quella circostanza. Ma non anticipiamo. I due personaggi e sfidanti principali furono per gli Stati Uniti Harry Dexter White, ebreo, figlio di immigrati lituani, che ha per molti anni rivestito un ruolo importantissimo in economia e pure in politica estera, sebbene da posizioni solo apparentemente di seconda fila, ruolo stranamente non evidenziato quasi mai nei libri di storia. Il secondo è un nobile inglese, John Maynard Keynes, che era, almeno in quel periodo, visto come l'equivalente economico di Albert Einstein, una figura aristocratica elevata, una vera superstar dell'epoca. Teniamo presente che al tempo gli economisti non erano affatto noti ed egli rappresentò il primo caso. Ma facciamo ancora una volta un passo indietro. La conferenza si svolse nel corso di 3 settimane, nel luglio del 1944. Inizierà appena 3 settimane dopo l'invasione ed il D-Day in Normandia, quindi lo spirito per molti era euforico. Negli Stati Uniti il presidente è Franklin Delano Roosevelt, che attribuiva una grandissima importanza a questo avvenimento. La piccola e sperduta cittadina di Bretton Woods fu scelta per motivi puramente politici, per la futura battaglia alle primarie del New Hampshire. Dobbiamo anche sottolineare che Roosevelt non aveva alcun interesse né conoscenza per gli affari monetari e si affidò all'amico d'infanzia Harry Morgenthau, segretario al tesoro. Ma pure Morgenthau non sapeva molto della materia. Egli era infatti un coltivatore di mele, persona pure colta, ma pur sempre un coltivatore di mele e non un tecnico. E di fatto lasciò l'intera gestione al suo vice, la figura davvero notevole di cui abbiamo già parlato, Harry Dexter White. Gli americani ritenevano che la guerra fosse scoppiata soprattutto a causa delle guerre valutarie della seconda metà degli anni 20 e dei primi anni 30, con la riadozione e poi l'abbandono del gold standard. Ricordo che il gold standard è quel sistema in cui la base monetaria è in oro e le valute sono convertibili in oro, anche se, per la verità, gli economisti moderni ritengono che fu proprio l'adozione del gold standard a contribuire alla lunga durata della depressione. Comunque, in base all'interpretazione degli Stati Uniti del tempo, la Grande Depressione a livello globale contribuì a creare l'ambiente di miseria e di rabbia che permise ad Hitler e Mussolini di emergere. E questo, a parere di chi vi parla, è vero. Quindi, a loro avviso, il Fondo Monetario Internazionale che stavano per creare a Bretton Woods, che nella loro visione era molto più importante della Banca Mondiale, doveva essere un complemento vitale delle Nazioni Unite che sarebbero state create l'anno successivo a San Francisco. Ma gli americani, ovviamente, volevano creare un sistema globale basato sul dollaro americano, con l'oro come base, dove il dollaro sarebbe stato fissato all'oro ad un prezzo fisso, quello che si definisce Gold Exchange Standard, dove cioè le altre valute sono convertibili in dollari, questi ultimi convertibili in oro. Gli altri paesi non avevano in realtà grandi possibilità di dissentire. Negli anni 40 non c'era altro modo di commerciare, quindi di sopravvivere nel mondo, senza oro o dollari americani. Negli Stati Uniti controllavano quasi l'80% delle riserve auree monetarie mondiali. Harry Dexter White disse, parlando ai delegati americani, che il motivo che avrebbe spinto il mondo ad accettare sarebbe stato l'oro di Fort Knox, ed era per questo che gli Stati Uniti dominavano il mondo finanziario. White ha sempre combattuto la posizione di predominio che, fino allo scoppio della guerra, aveva avuto l'Inghilterra. Ad esempio, egli persuase i cinesi a sganciare la loro valuta dalla sterlina e ad agganciarla al dollaro americano. Va detto poi che molti nell'amministrazione Roosevelt consideravano gli Stati Uniti come una potenza anticoloniale e Harry Dexter White ha sempre visto l'economia come un mezzo per i fini politici, ma su questo ritorneremo più avanti. Quindi, Bretton Woods era, nelle intenzioni di White, uno strumento chiave per eliminare la Gran Bretagna come rivale politica ed economica nel mondo del dopoguerra. Morgenthau, dopo la morte di Roosevelt, dirà al presidente Truman cosa si era prefissato di ottenere a Bretton Woods. Aperte virgolette. Volevo spostare il centro finanziario del mondo da Londra e Wall Street al tesoro degli Stati Uniti. Gli americani erano convinti che l'Inghilterra al posto loro avrebbe fatto lo stesso e probabilmente avevano ragione. Ad ogni modo la Gran Bretagna fu davvero l'unica delegazione a Bretton Woods che oppose resistenza al piano americano. In effetti, Harry Dexter White e John Maynard Keynes si sono davvero battuti, talvolta violentemente, senza esclusione di stilettate polemiche, sugli articoli finali dell'accordo del Fondo Monetario Internazionale. La Gran Bretagna, di fatto, fu costretta a stipulare con gli Stati Uniti un accordo capestro per sopravvivere alla guerra, al fine di ottenere prestiti americani per superare i primi anni post-bellici. Ma altri elementi chiave imposti dagli americani sarebbero stati: primo, la rinuncia della Gran Bretagna alla cosiddetta preferenza commerciale imperiale, cioè la disposizione con la quale la Gran Bretagna si concedeva un accesso privilegiato ai mercati delle sue colonie e dei suoi domini. Secondo, la Gran Bretagna sarebbe stata costretta a rendere nuovamente convertibile la sterlina britannica ad un prezzo fisso in dollari americani, entro una data fissa, al 15 luglio 1947, un giorno che gli inglesi considereranno da allora infame perché li metterà in gravissima difficoltà per la necessità di privarsi del poco oro che avevano nelle riserve. Infine, la Gran Bretagna avrebbe accettato il dollaro statunitense come unità di conto di base per il commercio globale dopo la guerra. Quindi, è giusto caratterizzare la conferenza come il riconoscimento, dopo la guerra, del predominio americano sull'economia mondiale, ma pure comprendere come vi fu, non secondariamente, la decisione degli Stati Uniti di sostituirsi alla Gran Bretagna, vibrando un colpo mortale al suo impero. Representatives of 28 countries, with Lord Halifax signing for the United Kingdom, meet in the conference room of Washington's State Department for the signing of the Bretton Woods Monetary Agreement. Authorized by President Truman to sign for the United States was Secretary of the Treasury, Mr. Vinson. Theoretically, Bretton Woods is an international pool of the goodwill of nations subscribing to the agreement. Summing up the importance of Bretton Woods, Mr. Vinson says, "We can be thankful that the history that we are now making is not another chapter in the almost endless chronicle of war and strife. Ours is a mission of peace, not just lip service to the ideals of peace, but action, concrete action, designed to establish the economic foundations of peace on the bedrock of genuine international cooperation." Per completezza di informazione, Truman poi rovescerà, almeno in parte, questa politica dopo pochissimi anni, con l'adozione del piano Marshall, perché cambiarono idea sulla possibilità di un'alleanza con l'Unione Sovietica e compresero la necessità di una Gran Bretagna forte in Europa, ma i colpi inferti furono decisivi. Ma parliamo ora del secondo protagonista della nostra puntata, John Maynard Keynes. Keynes nasce nel 1883 da una famiglia accademica di Cambridge della classe medio-alta. Egli era spiritoso, eloquente e sicuro di sé, fece studi brillantissimi, distinguendosi sempre, e cominciò a lavorare per l'amministrazione del governo di Sua Maestà per un ufficio che si occupava di affari relativi alla colonia indiana, facendo anche qui una brillante carriera. Keynes fu inoltre uno dei primi noti speculatori sui mercati borsistici mondiali. Comincerà, dopo la Prima Guerra Mondiale, a scrivere testi che si riveleranno profetici, come Le conseguenze economiche della pace e Per la revisione del trattato, dove prevede che la Germania, punita in modo così draconiano, finirà con il provocare gravi squilibri a tutto il sistema. Egli scriverà poi molti altri testi, ora considerati giustamente dei classici, e intrattenne una famosa corrispondenza con il presidente Roosevelt. Keynes era senz'altro il più eminente economista del tempo e uno dei massimi economisti in assoluto, ma molti ritengono, compreso chi vi parla, che egli fosse la persona sbagliata per quell'incarico, essenzialmente negoziale e diplomatico. Keynes cercò di limitare i danni, conscio che ormai il ruolo di moneta principale della sterlina non era più salvabile, proponendo l'idea di bancor, cioè un'unità di conto sovranazionale che non fosse però una moneta vera e propria e soprattutto che non fosse il dollaro. Se probabilmente tale unità di conto avrebbe aiutato a diminuire i grossi squilibri che già c'erano e che poi effettivamente si amplificarono, va detto che tale soluzione era palesemente inaccettabile per gli Stati Uniti, che si sarebbero trovati, in pratica, unica nazione costretta a prestare a tutti gli altri, per giunta attraverso un intermediario, una banca internazionale da costituirsi, che non avrebbero controllato. Keynes propose inoltre che i paesi in surplus, quindi in pratica solo gli Stati Uniti, che non avessero prestato denaro, avrebbero di fatto pagato una sorta di tassa a tutti gli altri. Tale piano era palesemente inaccettabile per gli Stati Uniti, ed inoltre la Gran Bretagna, quando la moneta dominante era la sterlina, mai si sarebbe sognata di proporre un tale sistema. Per cui appare evidente che questa posizione negoziale avrebbe avuto vita assai corta e non avrebbe nemmeno costituito le basi per una possibile negoziazione fra Stati Uniti e Gran Bretagna. Il sistema che invece fu approvato, o meglio imposto, dagli Stati Uniti prevederà la creazione di un fondo monetario internazionale, a cui fu affiancata la creazione della Banca Internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo. Il Fondo Monetario Internazionale avrebbe avuto il compito di vigilare sulla stabilità monetaria, che tutte le valute sarebbero state convertibili in dollari. Il commercio internazionale sarebbe avvenuto soprattutto in dollari. Per esempio, i prezzi delle materie prime, come il petrolio, sarebbero stati espressi in dollari, che le banche centrali dovessero mantenere un cambio stabile con il dollaro. Resta da comprendere perché l'Inghilterra decise di firmare questi accordi. È noto che c'erano altre possibilità di finanziamento da altri canali, soprattutto di banche americane, che non avrebbero imposto agli inglesi di capitolare con tutte le impegnative condizioni associate con quello firmato. Sappiamo che fu proprio Keynes a scegliere invece di sottostare a questo accordo, che pure comportava di fatto una totale sconfitta per il suo paese. Il reale motivo non è unanimemente accettato dagli studiosi. Taluni ritengono che abbia giocato un ruolo l'importanza che gli dava la sua eredità storica. Egli voleva essere infatti ricordato come l'uomo che determinò la morte del gold standard e forse era convinto che gli accordi avrebbero potuto essere successivamente rinegoziati. Ma non fu così. Ma torniamo ancora a parlare di Henry Dexter White. Come ho detto, questa è una figura assai importante, enigmatica e sottovalutata in tutti i racconti storici dell'epoca. Ma ora facciamo un passo avanti. Clamorosamente, nel 1948, l'ex spia sovietica Whittaker Chambers accusò White di aver fatto parte dell'apparato segreto sovietico fin dal 1938. White negò le accuse, ma alcune prove erano davvero schiaccianti. Il 13 agosto di quell'anno egli si presentò davanti alla commissione per le attività anti-statunitensi, negando ogni addebito, ma appena finita la sua deposizione ebbe un infarto che lo condusse 3 giorni dopo alla morte. Una delle figure più ascoltate dell'amministrazione Roosevelt, negoziatore a Bretton Woods, accusato credibilmente di essere una spia sovietica. For days the nation awaited word from former President Harry Truman on Attorney General Brownell's speech on the Harry Dexter White case. Then to the nation, Mr. Truman spoke on Brownell's accusation. This attack is without parallel, I believe, in the history of our country. I have been accused, in effect, of knowingly betraying the security of the United States. And in saying Harry Dexter White was known to be a communist spy by the very people who appointed him, he lied to the American people. Si scoprirà successivamente che egli aveva passato molte informazioni all'Unione Sovietica e si rivaluteranno molte posizioni che egli aveva preso, favorevoli appunto all'Unione Sovietica all'interno dell'amministrazione. Nel 1944 egli interpreterà in modo volutamente falso un'istruzione del generale Marshall circa i cosiddetti marchi di occupazione, la moneta in uso nella Germania occupata, consentendo ai sovietici di stampare moneta che poi potranno cambiare al tasso fisso garantito dal tesoro americano, un guadagno di oltre 4 miliardi di dollari dell'epoca a spesa del tesoro americano. In alcuni appunti di White, ritrovati negli anni 90, probabilmente scritti nel 1944, egli discetta sul perché gli Stati Uniti avrebbero dovuto stringere un'alleanza permanente in tempo di pace con l'Unione Sovietica e denuncia l'ipocrisia americana verso i sovietici. Incolpa il suo paese di imperialismo, attacca la potente gerarchia cattolica che ha firmato questa alleanza e poi esalta le virtù del socialismo sovietico. Conclude il suo saggio scrivendo: l'Unione Sovietica è il primo esempio di economia e di azione socialiste, e funziona. Nel 1946, il potentissimo direttore dell'FBI, J. Edgar Hoover, preparerà un lungo memorandum per il presidente Truman, per avvisarlo di avere le prove delle attività di White. Truman preferì, da principio, non espellerlo del tutto, per evitare polemiche, ma lo mise in posizioni dove non avrebbe potuto fare danni. Ma White era in procinto di diventare il direttore del costituendo Fondo Monetario Internazionale, ed allora gli americani decisero, tatticamente, a causa di questa situazione, di rinunciare alla titolarità di un americano per quella posizione, che infatti da allora è sempre stata appannaggio di europei. Vediamo ora cosa è successo dopo Bretton Woods, con l'arrivo di Truman. Egli da principio non aveva assolutamente intenzione di apportare cambiamenti fondamentali alle posizioni di Roosevelt in politica estera, anche per quanto riguarda l'Unione Sovietica. Truman, inizialmente, parlò con entusiasmo di Stalin e di come avrebbe potuto fare affari con quest'uomo, ma divenne chiaro poco dopo che Stalin, secondo almeno gli americani, non stava mantenendo la parola data. E la politica americana, come abbiamo detto, ebbe un radicale e repentino cambiamento di posizione, cominciando con il piano Marshall a stabilire in Europa una sfera di influenza da opporre all'Unione Sovietica. Ciò comunque non impedì il crollo dell'impero britannico, ma la posizione europea si consolidò. Per quanto riguarda gli accordi di Bretton Woods, come abbiamo visto, il cosiddetto gold standard venne sostituito dal gold exchange standard, che metteva il dollaro al centro del sistema, in un certo senso interponendolo fra le altre valute e la convertibilità in oro, e dando agli Stati Uniti il cosiddetto exorbitant privilege, cioè un privilegio esorbitante che derivava dal fatto che il commercio internazionale sarebbe avvenuto in dollari, di fatto eliminando per gli americani il rischio della cosiddetta bilancia dei pagamenti, e questa situazione continua anche al giorno d'oggi. Per molti anni il sistema funzionò, ma pian piano i dollari posseduti al di fuori degli Stati Uniti superarono le riserve auree americane. Anni di deficit e la convinzione che il sistema fosse inerentemente ingiusto convinsero molti paesi, ed in primis la Francia di De Gaulle, a convertire i dollari in oro, causando una pressione sulle riserve americane che divenne presto insostenibile. In pratica, gli Stati Uniti rischiavano di non avere abbastanza oro per convertire tutte le richieste. Nixon, il 15 agosto 1971, interromperà unilateralmente la convertibilità del dollaro in oro, causando lo sganciamento dal dollaro di molte monete, in quello che sarà noto come il Nixon Shock. We must protect the position of the American dollar as a pillar of monetary stability around the world. In the past 7 years, there's been an average of one international monetary crisis every year. Now, who gains from these crises? In recent weeks, the speculators have been waging an all-out war on the American dollar. Accordingly, I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. Nella puntata di oggi abbiamo ripercorso un momento importantissimo della storia contemporanea, la conferenza di Bretton Woods. Di nuovo abbiamo potuto comprendere come due figure importanti, John Maynard Keynes e Harry Dexter White, almeno in parte, seguendo una loro agenda personale, abbiano influito profondamente sulla nostra storia. Parla Londra. Trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Felice non è felice. È cessata la pioggia. La mia barba è bionda. La mucca non dà latte. Giacomone bacia Maometto. Le scarpe mi stanno strette. Il pappagallo è rosso. L'aquila vola. Parla Londra. Abbiamo trasmesso alcuni messaggi speciali. Runtime Radio ha presentato Delenda Cartago, un programma di storia e cultura a cura di Roberto Tomaiuolo, prodotto da Simone Pizzi.